Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo I ragazzi del Cavalcavia, scritto e diretto da Erika Galli e Martina Ruggeri, con Alberto Alemanno, Maziar Firuzzi, Ciccio Lamantia, Daniele Pilli e Michael Schermi. Musiche originali Diego Buongiorno, assistente alla regia Elvira Berarducci. 24 dicembre 1996, poco prima si faccia l'alba, all'ingresso di una cava di Pietrisco. Stato maturo. Spalle alte. Sguardo in avanti, alza la testa, spalle alte. Rilassato maturo. Rilassato. Sguardo avanti e gambe dure. I piedi veloci, gambe dure, rilassato. Giù quelle mani, morbido, morbido. Stai teso. Guarda avanti, sta dritto con sta schiena. I piedi dritti, veloci, gambe dure! Dai su! Respira! Respira! Respira! Questo è l'odore che fa un uomo. Dai suda! Cammina suda! Non ti fermare, continua suda! Fatica non esiste, ricorda! Fatica non esiste! Gli uomini che fanno questo odore non faticano, ricorda. La fatica non esiste, ricorda. Concentrati, gambe dure, stai su. Una birra, due birre, tre birre. Gli uomini veri bevono una birra, due birre, tre birre, tutte ad un fiato. Oh, fatemi bere. Oh. Oh, Rock! Rock! 20 flessioni, giù! Uno! Dai, dai! Due! Pensa all'obiettivo! Pensa ad arrivare alla fine! Pensa alle donne! Sei! Sette! Qual è il tuo nome? Ken! Non ti chiami Ken, maschio! Sono Ken il guerriero! 11, 12! Andà dritto, dimmi cosa vedi! Guarda bene, stai attento! Non ti fermare mai! Continua, continua! Guarda dritto davanti a te, dimmi cosa vedi! Occhi aperti, lucido, occhi aperti! Guarda dritto, i veri uomini cosa vedono? Oh! La parete, bravo! Come sta la parete? La parete enorme, alta fino al cielo! Poi con me sta parete. È grande. Dio caro, quanto è grande. Ancora? Com'è questa parete? È dura. Come una roccia. Come te, Rock. E di che colore è questa parete? Marrone. No. Dai, guarda bene. Come il colore di una gemma. Bravo. E cosa ti ricorda? L'estate. È il colore più bello, proprio quello dell'estate. Sì, è caldo, mi fa pensare all'estate. Poi cosa ti fa pensare? Alla forza. Bravo, siamo forti. Vieni qua. Cos'è questo? Un sasso. Te li troverai qui dentro le mutande. Quello non è un semplice sasso. Un pezzo di quella parete. Beh, adesso guarda di là e dimmi quanti sassi vedi. Tantissimi, quanti sono? Infiniti. Finiranno mai. Quel sasso puoi farlo tu. Quel sasso è tuo. Solo gli uomini veri possono fare questo. Solo chi ha la forza come noi. Siamo uomini forti. Siamo divinità, supereroi con i superpoteri. Stacchi anche la roccia dalla parete calda. Lo puoi far tu. Solo noi possiamo. Solo gli uomini forti come noi. Mettitele in bocca. Ma è duro, mi spacco i denti. Ma i denti di ferro, denti da titano. Mastica, mastica, mastica la parete calda. E adesso fammi vedere cosa sai fare con questi sassi. Uno sopra l'altro, che diventano strade, autostrade, ponti, gallerie. Le strade non sono altro che sassi bagnati dal sudore degli uomini veri. Lo puoi fare! Facciamo muovere le persone, costruiamo strade, vie di fuga, viaggi. Solo noi possiamo farlo. Sì. Le strade sono nostre! Le strade sono nostre! E dove vanno? Fanno viaggiare le persone. Le portano via lontano. Lontane da qui. Le persone viaggiano lontano da qui, grazie a noi. Camminano sulle nostre strade. Corrono sulle automobili. Corrono veloci e se ne vanno. Usano le nostre strade. E fanno loro. Grazie al nostro sudore. Grazie alla nostra forza. Siamo uomini forti. Guarda dritto. Davanti a te? Guarda. Dimmi cosa vedi. Adesso dimmi cosa c'è di fronte a te. Ci siamo noi. Ci siamo noi che andiamo verso qualcosa. Maschio! Adesso tu zitto, eh! Perché? Zitto! No! Se fai quella faccia lì sembri una volpe. Metti tutto qua, occhi, naso, bocca. I denti stretti così, guarda. Come quando Rock si prende le Mitsubishi. Bravo, come quando Rock si prende le Mitsubishi. Ma non devi ballare, devi stringere i denti. Che animale sei? Un lupo. Ma perché? Non lo so. I lupi non ci vedono niente, quasi al buio. Ma hanno un naso che sente tutto. E orecchie che sentono perfino il respiro della roccia. Che animale sei? Un lupo. Due fratelli? Lupi, lupi. Io? Un lupo. No! Il lupo, maschio. Il lupo, quello che vede tutto. Abbiamo gli occhi dappertutto. Entra di schiena e cammina al contrario. Ripeti. C'è Franco il mastino che non ci toglie gli occhi di dosso. Se non la smettete vi divoro gli occhi a morsi. E adesso tu ripeti quello che devi ripetere. Entriamo, che io ho fame e senza quei sassi non si mangia. Ripeti, maschio. Prometto e giuro, sul mio sangue spargiuro, che stanotte vedo il sol. Franco, il turno lo faccio a partire subito. Prometto e giuro, sul mio sangue spargiuro, che stanotte vedo il sole. Sguardo in alto, denti stretti. Noi spariamo da sopra i denti. Beh ragazzi, oggi si sta capiva che festa. Prometto. Prometto e giuro, sul mio sangue spargiuro, che di giorno mi nascondo, che di notte vedo il sole. Muori mondo, io ci sono. Muori mondo, non ti sento. Muori mondo a testa in giù. È una notte s'avvicina. La madre al petto la bambina, muori mondo in poche ore, muori mondo, non c'è più il sole. Tira via, Dio caro! Un uomo scende la sua postazione da radioamatore. È il Ruvido, il maggiore dei fratelli. Questa notte non ha chiuso occhio. A prima mattina, casa famiglia F. I-O-K-A-A 24 dicembre 1996. Aperto. Buongiorno a tutti da parte del vostro Ruvido. Avete visto che giornata di sole oggi, eh? Sole che spacca le pietre. nell'universo, la Terra. Nella Terra, uno stivale. Nello stivale, una città. La città è... Mamma, vai a vedere se è rimasto qualche fornello acceso sul fuoco. Scusate, allora nell'universo la Terra, nella Terra uno stivale, nello stivale una città. La città di T, a nord-ovest dello stivale. Ma che è sta puzza, mamma? Va che secondo me si è bruciato tutto, eh? Mi senti? Papà, sei in bagno? Ah. Scusate, allora nell'universo la Terra, nella Terra dello stivale una città di T, a nord-ovest dello stivale. In questa città, un'unica grande strada collega ogni posto, nella strada una casa e nella casa una famiglia. La mia famiglia. Ma Dio cavolo, l'ho detto un sacco di volte che non mi piace quando fate così, che vi parlo e non rispondete. Mamma! Mamma, mi senti? Mamma! Nell'universo la Terra, nella Terra uno stivale, nello stivale una città, la città di T, a nord-ovest dello stivale. In questa città l'unica grande strada collega ogni posto, nella strada una casa, nella casa una famiglia, la mia famiglia, nella famiglia fratelli. I miei fratelli. I1KAA. Chiudo. Va che sono tutti a lavorare, eh? Io ve lo dico. Qui finisce che andiamo tutti a fuoco, ve lo dico. Ve l'ho detto. Ve lo sto dicendo. Caffè, mamma. Ho bisogno di un altro caffè, che questo è caduto tutto, dai. Devi farmi un altro caffè, va bene? Che da oggi ho deciso che non dormo più, no. Conto le ore, moltiplico i minuti, spezzetto i secondi. E il tempo è cosa mia. Fare fatto allora, io aspetto, Ma che duriamo altri 5 minuti così, Che io te lo dico, mamma. Mando tutto a fuoco se non vieni subito. Mamma, stai facendo qualcosa con papà? Mamma! Mamma! Oh! Oh, mamma, vieni! Mamma, vieni presto! Oh, mamma, il cuore! Mamma, il cuore è lento! La pressione, mamma! Va giù! Oh, mamma, vieni, guarda! Non mi muovo più! Voglio il tuo caffè! Voglio il tuo caffè! Quello là, come dici tu? Nero come il diavolo, caldo come l'inferno, puro come un angelo e dolce come l'amore. Stai mandando tutto a puttana. 12 ore dopo, al Paradise Lost, un bullying a sud-ovest della città di T. Ciao maschio, grazie. Francesca, Susanna, Martina, la Fede. Ah, le gambe della Marti, gli occhi della Elisa e il culo della Emiliana, i capelli della Enricona e il sorriso della Marti. Guarda, io le prenderei tutte e ne farei una sola, una bella con la pelle chiara come la luna, una dolce come un Long Island, una pronta da bere, no? Sempre mai cazzo, mi fai pensare alla mamma. Tu sei malato, Rob, eh? ma le donne fondamentalmente sono una combinazione di quanto c'è di meglio e di quanto c'è di peggio al mondo. Bravo, Dacco, una come la mamma. La donna è come la pala da muli, c'ha tre buchi. Guarda bene, sono qui da solo in alto e la bocca, e questi altri due vicini sono la figa e il culo. E l'ideale è filarci qualcosa di tutte e tre. Da una parte la mano, dall'altra parte la lingua e dall'altra il birillo. Oh, birillo è meglio che non infili sto buco qua, eh. Che buco è questo? Dai, se lo sappiamo che buco è, vai. È la figa, dai! È il culo, cretino. Maschio, alzati che ti insegno una cosa, vieni. Vieni, vieni, vieni, vieni. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, che significa che è vicina al culo. È vicina al cuore, cretino! Ma è una parte importante, ma come faccio a spiegartelo? Vieni qua, vieni. È più stretto, ti piacerà di più, vedrai. Devi solo stare attento che le volte il birillo si incastra, non esce più. E allora sono cazzi amari per te e per lei. Devi tenere a bada l'emozione, devi concentrare, devi pensare all'altro e non guardare. Guarda in alto, pensa che ne so. Pensa ai cannelloni della domenica. No, pensa alla pubblicità del Nash. Pensa a qualcosa che ti fa rilassare, fissa un punto, un dettaglio. Se stasera riesci a portarti i lacchetti nel bagno, ma che? Cerca la finestra, aprila e guarda fuori. Cosa c'è fuori, Cosa c'è fuori? Campetto, con le macchine che vanno, che vengono. Pensa alla libertà, devi essere romantico. Devi dire quelle cose che si dicono negli appuntamenti. E non ti preoccupare, lo diciamo noi alla Ketty che deve stare con te. Mi devi troppo fare un favore. Dimmi. È un favore che mi devi troppo fare. Viene la Ketty stasera. Ah, la Ketty, bravo. La conosci? La conosco. Siamo usciti una volta. Allora che mi dici? Niente, la Ketty. Cosa? La Ketty è una ragazza. Ma è simpatica, dai. Ma non l'ha mai data a nessuno, la Ketty. Alle unghie colorate di viola mi fa vomitare. Ah, un bel portabagagli però, Ma siamo così ben vicino, Oh, ma che razza di ballato sei? Guarda, prenditi sta 10, aspetta, Da 10.000 lire, vatti a comprare un bel pacco di dure. Ma cosa siamo... mezzo paese con sta faccia, proprio abbiamo tutti sti ragazzini con sta faccia. Che cazzo ridi, coglione? Ma cazzo ridi tu, che non ti salza nemmeno la mattina come a tutti i maschi normali, nemmeno ti sollevo e ti porto lì di fronte alle tette della gioia, donna, guarda lì che tette la gioia mentre prepara gli hamburger con tutte queste mani sporche di maionese. È vero che non hai iniziato, guarda là. Ma dove l'hai lasciato a casa, Tacco? Tu stai zitto, capito? Che ti prendevo per quell'orecchia spentola che non si capisce di che le prese e ti alzo come la Coppa UEFA. Che passi tutte le domeniche pomeriggio a farti le seghe davanti alla faccia morta di Moana. Moana non c'ha la faccia da morto. Ti fai le seghe sui morti. Viva la Moana, l'ho vista pochi giorni fa. Sempre mai cazzo, levati dalle palle. Gli anni di Cristo quando è morta. Fatto strike! E Moana! Moana è come Cristo! È viva? Ma allora le butto tutte quelle cassette! No, non le buttare, ti prego! Lasciami almeno! Com'è che si chiama quella razza troppo bella? Mi faceva impazzire Moana e Cicciolina ai mondiali. Con loro due che entrano nello spogliatoio della Germania e li spompano talmente tanto che poi l'Italia vince, te lo ricordo! Bello, bello, bello, ma io dicevo l'altro, quello lì con. Quello con nome straniero, dici? Quello lì con la cicciolina e con Miss Pomodoro. Passionate Love! Bravo, quello maschio, dimmi che ce l'hai! Non ce l'ho. Ma... comunque non voglio vedere manco il mio preferito. Qual è? Le calda labbra bagnate della Moana. Maschio, vieni che ti faccio vedere una cosa. Vieni, guardala. No, maschio, guarda. No, guardala. La vedi quella lì laggiù vicino al biliardino? Quella lì è la mamma della Jenny. Strike! Quando io l'ho presa da dietro la borsa qui sotto, un po' di puzza di carne marcia, l'ho sentita, E allora, ma cosa ti frega? Fai sempre respirare con la bocca, È un segreto. Che guarda, quella lì, la vedi? Ma non è la Ketty quella. Ehi, Ketty! Ketty, mi vedi? Ketty, guardami. Ho studiato tutte le poesie d'amore del mondo, Sao. Non ho chiuso occhio. Mi stai facendo andare il cervello nel brodo. Ho il cervello nel brodo di patate. Dovresti andarla a prendere, capito? Dico che ce l'ho ancora il cuore perché me lo sento in bocca. Tutte le mattine che potrei masticarlo. Come una Big Bubble. Quella all'uva, quella è rossa, che ti... Eh? Sputa! Dove vai, che ti gatti? Catti gatti. Catti gatti. Che fa pure ridere come nome, però. Però tu sei bella, Catti gatti, allora nessuno di noi prende in giro. No, no. No. Catti, stavo pensando, eh. E se ti sposo? E se ti casi il cognome Catti? Catti! Oh! Catti! Katie, dovresti ascoltare il maschio. Katie! Oh! Silenzio in sala, cazzo! E smettetela con ste palle da bullying, se non volete che vi incendio quelle fia di merda che avete parcheggiato qui fuori. Così va meglio, grazie ragazzi. E basta pure voi con quelle stecche, che per il filo da parte a parte vi faccio come i torti di Marengo, che io ho fame! E anche i miei fratelli hanno fame, eh? No, io la reso, non ho fame per niente, qua. Io ho fame se mi scende su un sasso rosso. Katie! Non ci si comporta così, capito? Allargale quelle cosce, dai! Che ti hai mai sentito parlare dello stomacuore? Eh? Lo stomacuore è una cosa brutta come la cistite, la polmonite, l'ulcere, l'appendicitore, ti spiego qui. Praticamente il cuore si gonfia e si attacca allo stomaco. E io ho fame, che Dio ho fame, ma quello si gonfia e si sta prendendo... Si sta prendendo lo stomaco, Katie! Il mio di stomaco, capito? Zio, parlaci pure te, va! Vai, zio, vai! Zio, te! Cosa vuoi? Ma guardala! Non ho sentito, stavo solo pensando... Oh, maschio! Zio, cosa fai? Oh, tirati su! Mica la fine del mondo se se n'è andata, oh! È solo una ragazzina! Zio, non se ne può andare perché io la voglio, capito? Sì, non se ne può andare perché lui la vuole! Catti! Ti spendiamo il pacchetto di Diana Blu nel cuore se non ti fermi. Lo regala un po' d'amore al maschio che è un bravo ragazzo. Oh, ti strappi a piangere chi li ha morsi. Che ti? Ti guardiamo mentre dormi, capito? Farti scegliere il vestito da tua madre e poi ti sentiamo confessarti. Amore, non costa nulla. Ti sentiamo dire: ho paura di morire, ho paura del dolore, ho paura dei lupi che cavano gli occhi alle ragazze sole vicino all'ossona. Vedi bene così, eh? Con le braghe calate? Sono belli i ragazzi della famiglia F, eh? Siamo belli, Katie! È bello il maschio! Noi vogliamo un cucciolo biondo! Alla mamma piacerebbe un cucciolo biondo! Un cucciolo biondo! Sguardo fiero, denti stretti, un numero 10, cazzo, eh! Oh, lo chiamiamo Billy Sicone! Ma che così lo spaventate! Che hai paura, Katie? Katie! Oh, Katie! Oh, Katie si incula! Ti è venuto a prendere il babbo con l'Alfa Romeo, Katie. Brava, brava, grazie Katie, te lo devo dire, sei una gran maleducata. Oh, e non te ne andare. Troia, è una gran troia e nemmeno lo succhiamo. Non mi importa più di dirti la poesia. Me la sono scordata. Anzi, sai cosa ti dico, eh? Cancellerò il tuo nome, cazzo, però l'ho scritto da tutte le parti! Nelle porte dei bagni dei banconi, sulla console del bar blu, sul muro di fronte al mercatone, sotto il letto di mio padre, nella porta a vetri dell'autogrill della Shell, sulla fronte di mia madre, sulle mutande dello zio, il cappello di tacco, sui semafori per la via di casa e ieri sera sul cavalcavia. Cancellerò il tuo nome, Katie. Te lo giuro sul mio sangue. Spergiuro sulla bocca di tutte le donne perché mi dai il voltastomaco, Katie. cancellerò il tuo nome. Lo so che funziona. Con un imposcanero funziona. Vedi, già non me lo ricordo più. Vedi, già non me lo ricordo più. Come si chiama? Basta. Ma qual è il tuo nome? È andata via. What's your name? Vediamoci dalle palle. Arrivo. È che c'è la gioia che stasera mi mette una gioia proprio. Oh, che cazzo vi guardate? Lo spettacolo è finito. Sebastiano Grosso, girati, ti do un calcio della pizza come rigore di Maradona alla finale Italia-Argentina, capito? Via, aria, fatemi una risata che domani è festa. Dai, andiamo tutti a darlo. No, più il cuore per queste cose, io me ne vado a casa. Il texano dagli occhi di ghiaccio contro denti di cane al chiaro di luna è pronto a duellare. Zio, com'è? Mi sento bene, mi sento in forma come 10 milioni di anni fa. Ciao zio. Vieni, andiamo tutti al Dark Blue, dai. Non ci possiamo andare al Dark Blue, lo sai. Andiamo a Bosco Marengo. Era bello il Dark Blue però, eh. Dai, andiamo al Dark Blue, vieni, maschio. Cos'è che non ti è chiaro, attacco? Dai, da tanto che non ci andiamo, ci facciamo un giro. Se fa schifo ce ne andiamo. No, è troppo rischioso. E poi non mi va di tornare a casa con qualche dito della mano rotto. No, di quello non ti devi preoccupare, oh. Ci sono io. E c'è il maschio pure che è grosso, eh. Dai, ci facciamo un giro. Se la musica fa schifo ce ne andiamo. Oh, ci sta quel picciu del Magrassi. No. Ci sta di sicuro. Le ha rigato la macchina. Oh, le ho fatto 400.000 lire di danno al Magrassi. Lui e quelle merde di macchine da 400.000 cavalli. Comunque stasera al Tepplu c'è la mascherata di quelle che fanno la notte di Natale. Ci mettiamo le maschere, andiamo lì, non se ne accorge nessuno che siamo noi, dai. Ma cosa dici, tacco, le maschere? Ma dove le prendiamo, dai? Oh, ve le hanno prestate. Oh, che maschere sono? Chi te le ha date? Sono maschere fatte in casa, solo la faccia. Ce l'hai? Quella di Bruce Lee? Stai zitto, ci penso io, capito? Grande taccio! Allora, per il ruvido abbiamo questa qui. È un negro. Ma io non me la metto questa... questa cazzata in faccia, la faccia di un negro. Stai buono, capito? Stai buono. Così non ti si vede neanche al buio. E comunque questo negro qui è uno famoso. È il principe di Bel-Air, chiaro? Ah, un principe? Sì. Negro? Sì. Dammi quella di Bruce Lee, vai. Stai calmo. Per Rock invece abbiamo questa. Vincent Vega. Vincent Vega sì che mi piace. Bravo Taco! Com'è che diceva? Bisogna metterlo quando uno gioca con il fuoco! Prima o poi si brucia! Quella di Bruce Lee, vai! Alla. Dammi quella di Bruce! Allora, sono rimaste le ultime due piste, no? Visto che la prima è quella di Roberto Baggio, è tuo, vai! E tocca a me! Tu ti prendi questa qui, CJ! Che cazzo è CJ? È la bagnina di Baywatch, Cristo! Un'istituzione del bagnasciuga! Il paio di tette più significative di tutte le spiagge del mondo, no? Secondo te io dovrei mettermi la maschera di una donna, eh? Che figura di merda mi fai? Dai! E la pomela! Dai! Muoviti! Dai. Muoviti, maschio! La roba, maschio, fai vedere come stai, vedi che sei una figa bionda, dai! Muoversi! Oh! Hai visto Mike? Mike quello... Vabbè, lascia stare. Senti, se lo vedi... Ti dici che lo sto cercando? Ma che cazzo dici? Sono tanto con questa maschera di merda! Oh! Ma cos'hai? Un attimo! Grande Tacco! Dai Tacco, muoviti che dentro è pieno di figa! Dai, vieni giù! Ma lascia perdere! Lascia perdere cosa, eh? Negro di merda! Perché non sei rimasto a casa a parlare la mamma e papà? C'è chi ormai? Sì! Sono tutti a ballare, coglioni! C'è un Tacco negro verso P52! Dai, muoviti! Ci vediamo dentro! Ci posso credere, ma sei sicuro? Ma com'è la febbre? Ma che significa? 30 anni, cazzo, come fa a prendersi la febbre? Mi stai facendo sudare, non è una cosa normale, mi devi stare a sentire. Sono venuto qui per incontrare un Mike. Avevamo un appuntamento, avevamo preso parola, no? Dare la parola a qualcuno è come una specie di patto, come una specie di contratto, no? Ti ha detto qualcosa, eh? Oh! Oh! Ti ha detto che dovevi dirmi qualcosa? No, ti spiego. Doveva portarmi una cosa mia che è a lui, no? E mi ha dato appuntamento qui stasera al WWE. Io sono qui, sono venuto. Lui lo sa che è meglio che non ci vengo qui, eh? La febbre. Ci si può far venire la febbre, capito? Oh, oh, oh! Sono calmo! Sono calmo, sono qui, sono calmo! Avevo un appuntamento con ormai che io stasera, è sabato, giusto? Siamo al Dark Club e lui non c'è, non c'è! Mi porti da lui? Accompagnami da lui, dai, ci mettiamo il secondo. No, mi faccio dare la macchina da mio fratello. La febbre. Non esiste la febbre, capito? Anch'io sto andando a fuoco e non ho la febbre, sono qui al Dark Club alle 11. Le 11! L'orario del nostro appuntamento che stanno passando sempre più in fretta e lui non c'è. No, no, no, no, adesso. Aspetta un attimo. Adesso o mi dai qualcosa tu o mi porti a casa di quella faccia bucata di ormai, capito? Io salgo su, mi prendo quello che è mio perché non si fa così, eh? Non ci si comporta così, oh! Ma dove cazzo vai? Aspetta, ma... Cristo santo di un Dio tutti santi e la madonna della guardia. E l'ultima sveglia che mi è rimasta. Michele tuo nonno, figlio di cagna. Ormai che pezzo di merda. Che me ne frega se non bacio Simone dal 94. Che me ne frega di andare a ballare. Che me ne frega di stare in fondo al mare. Che me ne frega dei miei fratelli, di mia madre, di mio padre. Dicembre 1996, ore 12, casa famiglia F. Auguri. Buon Natale. Mangiare Mercedes, vai. Ma come si fa? Va. Nella con dell'acqua calda che ci infilo i piedi dentro prima che mi ci stacca dalle gambe come due sparatiti, eh? Oh, buon Natale, eh? Auguri, auguri. Oh, buon Natale, zio. Non vi ho fatto il regalo neanche quest'anno. Ma tanto che cazzo mi serve, avete tutto. Voglio vedere se me l'avete fatto voi a me. No, vai tranquillo, non ti abbiamo fatto niente, tanto, vai tranquillo. Oh, però se me l'avete fatto riportatelo indietro, eh. 3.000 lire da ciascuno di voi e mi alzo la serata, Rock. Oh, zio. Vedo dei pacchettini fuori, belli grossi anche. Però se mi avete regalato il biglietto dell'Inter che il 5 gennaio gioca in casa con la Roma, quello lo prendo, è una bella partita. Pagliuca in porta, Bergomi, Xavier Zanetti, Jorgef. Ora questo pallone tu, eh? Ma faccia lavare le mani, va. Oh, Rock! Eh? E a me? Che mi avete regalato per Natale? Una parrucca, zio! Una parrucca bionda, puoi farti anche la coda. Ah, anche la moda, eh! Se lo sai cosa ti ho regalato a te io, eh? Cosa? Tutte le cassette di Bruce Lee. Solo che col cazzo che te le do adesso! Se ti mettono a fare il tocco il ganso, eh! Oh, che sei sempre a casa nostra! Oh, maschio! Oh! Devi star, guarda! Devi star tranquillo, mi hai sentito? Oh! Io? Ehi. Ma i pacchetti lì fuori, ma quanti sono, eh? Quanti sono? 2, 3, 4. Ah, guarda lì, quello più grosso di tutti deve proprio essere un regalo per Taco, eh? Zio? Sei troppo ganzo. Ti voglio bene. Non dai le cassette però. Che fa? Mi bacio. Mi bacio. Però. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sono solo numeri, solo gambe, solo un gioco. Se che non ce l'ho più il cuore buono per queste cose. Ora pensa a ste cose, stai tu, eh. Guarda che ci sento io, eh. Zio, tu senti solo quello che ti pare, mi sembra, eh? Oh, buon Natale! Auguri. Oh, ho un'ideone, Sandro. Ho un'ideone per domani. Portiamo a ballare la mamma in discoteca, eh? Domani sera. Sono sicuro che si diverte. Andiamo con la tua macchina che è bella profumata, sa di limone. Che dici? Eh? Oh, son belle le luminarie quest'anno, eh? Dovete ringraziare la vostra madre che ha preparato tutto. Grazie, oh. Fatela felice stasera, non uccide, state a casa. Capito che voglio dire? Oh, capito? Se portiamo la mamma con noi a ballare domani, può tornare a casa e può raccontare tutto al babbo, può dire che si è divertita con noi. Io non ho capito perché la mamma non può uscire mai solo perché il babbo sta così. Non è giusto, eh? La mamma è ancora una bella donna. Bella mamma? Non si fa un commento sul fisico, la mamma è sempre la mamma. Vai, Taco, smettila. Che la mamma è ancora un pezzo di donna da far girare la testa. Sempre detto io che ero da festa. Zio, da far girare la testa, quale festa? No, oh, capito, capito. Stavo solo scherzando, cucciolo. Prova a richiamarmi cucciolo. Prova a richiamarmi cucciolo. Cucciolo! Cucciolo! E uno campa! Un saluto dal vostro Ruvido e buon Natale! Ho sempre pensato ai miei fratelli come a dei pupazzetti Lego con le braccia troppo corte. Eh sì, di quelli che non si incastrano bene negli altri pezzetti. Ho sempre pensato che fossero i pezzetti difettosi di una scatola imballata troppo in fretta, sì. E questo Natale, mentre li vedo esplodere di gioia e di rabbia nello stesso momento, penso che questo momento è il primo e l'ultimo. È l'inizio di qualcosa e la fine di tutto. Voglio dire, se non fossimo noi, fratelli F e lo zio Tex, penserei che siamo soltanto dei pupazzetti Lego con le braccia troppo corte. Ma noi siamo molto altro. Molto altro ancora! E se vedendo entrare in camera nostra madre non sapessimo che è nostra madre, penseremmo che è una donna bellissima e non smetteremmo più di guardarla ballare attorno a quel paraplegico di nostro padre e guardarlo con gli occhi di chi ama. Ancora. Io da grande voglio fare l'attore di X-Files. L'avete mai vista una faccia come la mia? Eh? Sono fatto per il cinema io, eh? Io, da grande, vorrei solo bere Tanta Desperados! Hi-ha! Paolo, vado. Da grande voglio fare un ballerino di una carena. Voglio lavorare nei villaggi. Tutto qua. Guarda. E se nostra madre Pina e nostro padre Piero non ci sorridessero così tanto vedendoci tutti insieme ancora una volta, questo sarebbe un Natale come tanti. Ma questo è un Natale da prima volta. Dai, da prima volta. No, dai, vai. Sorridi. Sorridi. Fatemi un regalo quest'anno. Non mi fate sentire più niente. 26 dicembre 1996, a prima sera, un cavalcavia sulla A21. Giornata fredda, cielo limpido, nemmeno una nuvola. Sopra le nostre teste solo il cielo limpido, buio come una notte senza luna. Non si sente niente. Tutto pronto, ormai manca poco, siamo così eccitati. Grande da far paura. Come in un deserto o un palcoscenico. Fatemi sentire. Soli in mezzo al niente. Tutti gli occhi puntati contro. Cielo limpido, freddo che entra nella pelle. Come il primo freddo, come il primo inverno. Come la prima volta. Mettetevi una mano sul cuore. Silenzio. Tutto intorno, dentro o fuori, regna il silenzio, non c'è nessuno. Occhi chiusi, testa alta. Sembra come di stare sott'acqua, come in apnea in fondo al mare. Sembra di stare dentro la pancia di una balena. In una notte senza fine, lunga tutta la vita. Sentite battere i vostri cuori. Ascoltateli. Sentite come fanno. Non sarei mai aspettato di sentire tutto questo. Manca il respiro. Giornata fredda come non se ne sentivano da anni. Ho il cuore che mi rimbalza nel petto. Ho il cuore arrabbiato. Santo, ma lo sentite anche voi tutto questo? Non lo sentiamo tutto questo. Tutto questo silenzio. Non aspettavo altro. Sono carico. Attacca. Inizia bene questa serata con i muscoli vivi, pronti. Facciamo un respiro profondo, dai. Aprite bene le orecchie adesso. Nel nome del padre, del figlio e di Maurizio Gazzo. Nel nome del padre, del figlio e di Maurizio Gazzo. In ogni posto che andiamo, la gente vuole sapere chi noi siamo. Glielo diciamo, chi noi siamo. Possiamo tenere gli occhi aperti tutta la notte. Non so fare. Aspetto altro. Siamo l'armata nell'azzurra e mai nessuno ci fermerà. Noi saremo sempre qua quando ride e giocherà. Attacca! Angoli 8 per farci. Spettatori, paganti ed abbonati 14.658 per un incasso. Continua. Per un incasso di 568.939 milioni di lire. Figa. Attacca! Al 24esimo è espulso Caini per gioco falloso. Al 30esimo è espulso Branca per gioco falloso. Al 90esimo è espulso Inse per proteste. 42esimo Valencia smarca Sabau che crossa in aria nero-azzurra. Pacheco colpisce il pallone e supera Pagliuca. È una lotta impari tra titani e giganti. Vai avanti, ti prego, tanto non ricordare sta roba. 64esimo, Maurizio Ganz lascia partire un tiro dalla sinistra, pallone deviato da un difensore che giunge sui piedi di Jorkep, che colpisce il pallone e lo fa passare tra le gambe di Ballotta. Qualcosa, dillo. Il gol del pare. Bravo! Siamo l'armata nerazzurra e mai nessuno ci fermerà. Oh! Ehi, guarda là. Dove? Lontano, davanti e dietro. Secondo me in quella che è passata adesso ci stavo ormai. Che frocciola di merda. Oh, quanti ce l'abbiamo? Saranno una ventina. No! Così non va bene. Devi essere più preciso. Sono 22. 22 ne sono sicuro. Stai carico stasera, maschio? Sempre. Maschio, ti ha visto qualcuno? No. Dai, cominciamo. Quando il freddo sarà più freddo che mai. Quando la notte sarà più buia che mai. E quando noi saremo grandi, più grandi di adesso. Più grandi di questo deserto, di questo palcoscenico vuoto, di questa notte e di tutte queste vite che ci passano in mezzo alle gambe, che sembra che ci escono fuori dal buco del culo e se ne scappano via. Sono tante rocche, eh? Ma sì, che mi viene voglia di cagarle fuori, come quando mangio la pasta al sugo della domenica della mamma, come quando non sopporto più niente. Chissà dove cazzo vanno, eh? Vanno via, vanno lontane, si vanno a salvare. Glielo voglio chiedere, voglio vedere chi ce l'ha dentro. Ah, magari ce l'acchetti con uno dentro. Dentro quella! Se ce l'acchetti. E che sono delle scatolette vuote con le ruote impazzite che se ne scappano via! Oh! Ma dove cazzo andate? Guarda! Guarda là in fondo, la vedi? Là ce l'acchetti! Le vedi quelle due lucine lì in fondo lì? Sì. E là dentro ce l'acchetti! Cazzo dici, dove sei? E lì è bionda! Cazzo, la vedo pure io, sta roba Mike! Con Michele, che sì. Guarda bene, maschio, cosa fa la catti con un uomo vero. Tutum. Mossa del freno a mano in altri. Se non sbaglio, ormai c'ha il 501 coi bottoni. Pezzo di merda con i miei soldi se le compri. Uno, due, tre. Che succede? Non capisco, che cazzo dici? Mi dispiace, maschio, non puoi competere. Ma tu guarda lì come ci dà dentro, guarda lì. Tutum. Oh, ma quello non era Porsche? Non era Ketty? Merda! Se non merda non saprei come chiamarti. Ma che cazzo di macchina hai, una Porsche? Eh? Non mi venire a dire che dei fuori col bullying e le Coca-Cola sti soldi. Oh, quello sì che è un pompino con la P maiuscola. E su e giù e su. Ormai che io ti odio come tutta l'Argentina. Oh, guarda che sta arrivando. Quando arriva quest'ora passano più o meno 10 macchine ogni 20 minuti. Al 15° minuto, non so perché, non ne passa più nessuna. E allora io sento il vento e basta. Lo sento forte, che mi dà fastidio. E lo sento freddo, è un effetto psicologico. E allora io metto su la radio noiosa nella testa. Quella che mi fa pensare a Dio. Addio cane! E mi fa pensare che le nuvole e le stelle non stanno sopra, ma stanno sotto, e che le macchine sono sue, al posto del cielo, e volano come il ritorno al futuro. Ed è tutto rovesciato, e la strada è blu, e si scioglie, e cominciano ad arrivare delle onde altissime che coprono tutto quello che vedo, e la mia famiglia si tuffa e ci nuota dentro. La mia mamma è una sirena, e il mio papà è un ippopotamo, e i miei fratelli sono delle rane gialle che parlano americano, e c'è pure lo zio Tex che è diventato un unicorno, e i miei nonni che fanno la macarena e mi insegnano a ballare, e l'Inter vince lo scudetto sempre, e io divento enorme. Divento un gigante grosso, rosso, con le mani d'acciaio e le gambe di ferro. E il cazzo mi si allunga. La bocca mi si allarga. E gli occhi sono delle luci arancioni che mi bruciano tutto quello che vedo. I fiori, gli alberi, gli uccelli, la mia maestra degli elementari, e il prete Frocio che da piccolo ha provato a farmi una sega, e io gli ho detto muori con quelle mani mosse. Io non muoio mai, non muoio più, e mi mangio tutti i morti nelle tombe, e i vivi, e i morti sulla terra. E poi vomito mio padre, mia madre, i miei fratelli, e mi mangio lo Joe Tex e Alessia March e i nonni che fanno la Macarena e l'ippopotamo e l'unicorno e la rane. E poi vomito sto vento freddo che fanculo, mi taglia la faccia. E vomito la Chiara, la Elisa, la Roberta, che mi ha fatto una pompa ieri sera in Up to Grill. E vomito l'amore. Fratelli e fratelli, cominciamo! Autorimorchio! 103 km orari. A 3 punti scarsi, premio! Una pizza da Gianni. Una funghia e salsiccia. A bordo! Cinquantenne della Valsugana. Vento bastardo! Una pizza a funghi e salsicce. Würstel e patate fritte. Libero! Scenda, scenda! Sei una pipa di occhio! Game over! E maschera di riscaldamento! Oh, oh, oh! Harley Davidson! Modello fat boy! Bella da morire! È quella di Terminator! 120 km orari! Merda! È quella di Arnold Schwarzenegger! 35enne svedese che va a trovare la sua bella! 1 milione di punti e andava a 220 all'ora per vedere la prima mia! Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh! Ci vedo appannato, Dio cane! Però che era impossibile! E ora, signori, scende in campo la faina! Con lo sguardo d'acqua e i denti da lupo, inarrestabile! Veloce come una pantera, cattivo come una serpe! Signori, ecco a voi! Tacco! Tacco, tacco, tacco, tacco, tacco, tacco! Vai che sto in piena! Panda bianca! 90 km orari! Una sega da lavanda! No! Dai, il servizio completo da lavanda ci fa lo sconto! 50.000 lire! Un nonno 73 anni sulla schiena, ex pugile in pensione, nipote bella figa bionda 23 anni. Servizio da lavanda? No! Sono 30 punti, dai! Oh, un servizietto da lavanda! 50.000 lire! Vabbè, un servizietto da lavanda, una funghia e salsicce! No! Ho detto 50.000! Ci siamo quasi 3! 2! 1! Fatturo! Non ti dico sulla lavanda di terra! Ma schifo lavanda, è sempre mai cazzo la pizza, funghi e salsicce di Gianni! Dammi una sigaretta, dai! Ah, vieni, vabbè. Ma zio, tu non... Ah, c'ho voglia. Forse dovreste smetterla pure. Lo smettiamo noi, capito? No, noi non smettiamo. Zio, ma lo sai dove portano queste strade? Portano fino ai mari del nord, fino alle isole tropicali, portano fino alla pancia di nostra madre, chiaro? Le strade? Entrano dentro la figa di nostra madre ed escono verso la luna. È chiaro, ci prendono tutto. Non smettiamo. È la verità. Sì, è la verità. È la verità che puoi anche andartene se vuoi. Sì. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. No. E allora tira. Ma vaffanculo. Datemi da bere. Dai, Long Island fatto con l'estate, mi piace da morire, sta di zucchero fiato. Dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio, zio. Il Belluino è pronto. Toyota Picasso Bordeaux, interni in pelle Havana. Due amici biondi, capelli lunghi. I capelloni mi fanno saltare i nervi. 25 anni fanno skate. Fuma Maria di prima qualità. Questi bastardi capelloni. È direzione Hawaii. Che bisogno c'è di andare alle Hawaii? Fermali, Gio. Bastardi hawaiani. È una cassetta piena di desperati schiacciati. Fermali, zio! Eccoli, zio! Strappa i capelli biondi che mi fa pensare alla Katie. Spagliali la faccia! Libero, riscarica! Si accatta a posto del mare, l'altro quasi morto, ma dai! Nessun danno però, Ce l'ha presi! Ma li ha presi male, dai, fa niente, non fa niente! Ma non ce ne sono nemmeno accorti! Non li ha nemmeno fermati, capito? Cazzo di sonno che ho, ragazzi, non mi reggo più in piedi, dai, ve l'ho detto, è arrivato il momento, forza. scarica? Sì. Ci siamo! Sì, sì, poi andiamo tutti al Dark Blue, eh! Cazzo ci devi fare? Cercare al mare. Scarichiamo, Dio cane, che mi sono rotto le balle di questi giochetti in cui non si vince mai un cazzo, capito? Oh, adesso vinci! Oh, tutto, cazzo, cosa vuoi? No, vinciamo tutto! Vinciamo tutto, punteggio pieno! Vinciamo le desperate schiacciate! I servizi di lavanda e la pizza funghi salsiccia più stampata di fritte che c'è per mai rete! Vinciamo tutto! Vinciamo tutto! Pronti! Vai! Fiat Marbella, color fango, napoletani a bordo, 89 km orari! Strae! Lancia Y, impiegato torinese, 38 anni, 120 km orari! Doppia strae! Mercedes Grigia, targata Brescia, coppia! Vanno in viaggio di nozze! Si amano! Si amano da morire! Fanculo l'amore! Fanculo Lacchetti! Fanculo tutti! Come si amava la mamma e il papà un miliardo di anni fa! Viaggiano verso Parigi! La città dell'amore! 3, 2, 1! Lo spettacolo I ragazzi del Cavalcavia, scritto e diretto da Erika Galli e Martina Ruggeri, con Alberto Alemanno, Maziar Firuzzi, Ciccio Lamantia, Daniele Pilli e Michael Schermi. Musiche originali Diego Buongiorno, assistente alla regia Elvira Berarducci. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Anna Maria Bruni per presentare all'interno della seconda edizione del Filo di Arianna, lo spettacolo Desdemona è tornata. Non scriverete mai più la vostra storia sui nostri corpi. Spettacolo di cui è autrice e regista. A Roma, al Teatro 7 Off, martedì 21 dicembre 2021. Ben trovata. Grazie Federico, ben trovato te, grazie dell'invito. Ci parli di questo progetto? Molto molto volentieri e ti ringrazio. Il progetto nasce dal laboratorio teatrale fatto da San Basilio, che è un centro voluto da Be Free, cooperativa che si occupa di tratta, violenza e discriminazione. Il centro Spazio Donna è un luogo di ritrovo per le donne e un luogo dove le donne possono fare attività insieme, tra cui appunto il teatro. Lì è nato un laboratorio teatrale che ha maturato diversi spettacoli e alla fine mi ha dato motivo di realizzare questo progetto, di cui l'altro anno abbiamo avuto la prima edizione, che tra l'altro si è aggiudicata a un bando della Regione Lazio, e quest'anno abbiamo dato vita alla seconda edizione, volendo tra l'altro allargarci, quindi abbiamo lanciato un ponte da San Basilio a Tufello per mettere in rete sia i centri antiviolenza, il centro di Via Titano, ora gestito dalla Casa delle Donne Lucia e Siesta, il centro Donna Lisa, che è un centro storico del Tufello, e contemporaneamente iniziare la collaborazione col Teatro 7 Off per il lavoro artistico, per il teatro appunto in particolare, perché Michele La Ginestra, che lo dirige, ha voluto questo teatro proprio al Tufello. Quindi qual è il progetto in sostanza? È quello di elaborare il lavoro artistico, in particolare il teatro, facendolo passare per un'attivazione sempre più larga e sempre più a rete nei territori, in particolare in questi territori, coinvolgendo in questo caso le donne. E da qui è nato il progetto Filo di Arianna e lo spettacolo di quest'anno che è Desdemona è tornata, che coinvolge ben due donne del laboratorio teatrale Spazio Donna, Antonella Olivieri e Federica Bacchiocchi, e accanto a loro un'altra attrice che è Silvia Casadei. Ce lo presenti lo spettacolo? È una storia che nasce da tre giovani donne, amiche, sorelle, che si ritrovano in uno spazio intimo, come sempre succede alle ragazze quando sono giovani e condividono spazi come camere da letto e toilette, eccetera, eccetera. e si trovano amiche e sorelle, per poi da adulte ritrovarsi nemiche, accusandosi l'una con l'altra di tutto ciò che in realtà le ha condizionate del contesto in cui vivono, o della famiglia, o dell'uomo che hanno sposato, e di come appunto vivono l'amore. Ma da questo conflitto e dalla scoperta di avere in qualche modo ucciso dentro di sé la parte più viva che avevano condiviso e che le aveva viste insieme, nascerà, come sempre succede nei sani conflitti, un viaggio nella memoria che scoperchierà tutte le ragioni che imprigionano le donne e che fanno capo alla società in cui viviamo, in particolare al patriarcato. E da lì ci sarà un ritrovarsi attraverso ragioni più salde di donne più mature che fanno altre scelte. Lo spettacolo continuerà ad avere una circuitazione? Lo spettacolo continuerà ad avere una circuitazione perché non solo nel terzo e quarto municipio noi stiamo cercando di dare vita a questa rete che vorrei definire proprio transfemminista fra i centri antiviolenza e i luoghi di ritrovo delle donne, ma anche a livello nazionale stiamo dando vita a una rete con altre registe, autrici teatrali e altri festival che già attivi delle donne. Ne cito alcuni: l'Eccellenza Femminile di Consuelo Marinari in Liguria, con la Scrittura della Differenza di Alina Narciso a Napoli, anche fra Napoli e Cuba vorrei dire, la Scena delle Donne di Pordenone con Bruna Braidotti, l'Aquilone di Liliana in Sardegna. Insomma, ne ho citate veramente alcune, ma siamo in tante, stiamo creando una vera rete per dare vita a un lavoro comune sul piano teatrale, ma anche naturalmente anche a una battaglia comune per la parità di genere nei ruoli di questo settore. Quindi siamo veramente alla riscossa e vogliamo che questa rete comunque dia vita appunto a festival condivisi. Quindi sicuramente tornerò a parlarne con te, mi auguro, perché torneremo a portarlo in giro per l'Italia. Ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete andare sulla pagina del Filo di Arianna, che è la pagina del progetto appunto, o dell'associazione Spazio Libero, che è un'associazione di promozione sociale che ho aperto nel 2016 e da cui nascono questi progetti, in particolare i progetti teatrali. Quindi Spazio Libero APS, il Filo di Arianna, altrimenti anche la mia pagina Anna Maria Bruni, ovviamente. All'interno della seconda edizione de Il Filo di Arianna, lo spettacolo Desdemona è tornata. Non scriverete mai più la vostra storia sui nostri corpi. A Roma, al Teatro 7 Off, martedì 21 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autrice regista Anna Maria Bruni. A presto! A presto e grazie ancora! Siamo all'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, vai! Eccolo qui, Simone Nebbia di Teatro e Critica, che vi accoglie con Jingle Bells e vi presenta la settimana che poi conclude con il Natale. E come naturale che sia, in fondo poi in realtà c'è rimasto poco e niente, perché quest'anno è un Natale magro e sotto l'albero di spettacoli ce ne stanno un po' pochini, ma andiamo a vedere che cosa ci permette questa settimana. Allora, vediamo un po', comincerei da una cosa un po' fuori dal nostro immaginario in genere, perché si tratta di un lavoro che parte dal teatro, si esplifica attraverso, diciamo, una componente teatrale, ma ha a che vedere con la realtà aumentata, quindi con il video in una sua accezione ancora più grande, insomma, di esperienza sensoriale con la realtà. Sei un mito, Annus Secundo, Venere. È il progetto di Mariano Equizzi con Quarcademy Cerca di trascinare appunto gli spettatori all'interno di una ricerca, un po' come si faceva con l'app dei Pokémon qualche anno fa, di inseguire e ricercare, guidati dalla mappa di Google, delle divinità latine legate al culto di Venere, e sono già tuttora da un po' di tempo disperse, così saranno fino al 31 dicembre, dalle parti del quartiere Eur, quindi Flora, Zefiro, Amore, Cibele, Leore, Bacco, Proserpina, la stessa Venere, saranno sparse in giro, e attraverso appunto questo, i nostri smartphone possono essere catturate e la loro storia, insomma, verrà poi ricostruita, proiettata davanti a noi attraverso appunto il video dei nostri smartphone, che il collegamento, diciamo, alla realtà aumentata che i nostri smartphone permettono. Fino al 31 dicembre, quindi, dalle parti dell'Euro, precisamente se vado a geolocalizzarla, tra Piazza Kennedy e Viale della Civiltà del Lavoro, nel quartiere Euro, appunto, per tutte le informazioni sulle modalità di accesso e tutto quanto, il sito qacademy.it dà tutte le informazioni. Per completezza di informazioni, alla consulenza storico-culturale del progetto ho partecipato io, quindi in qualche modo devo denunciarlo, perché insomma è un consiglio che passa dalla mia partecipazione, ma insomma ho fatto veramente nulla rispetto all'offerta artistica, quindi io ho fatto solo da ricerca culturale, quindi insomma mi sento in salvo da questo punto di vista. Per quanto riguarda, mettiamoci a vedere un po' invece che c'è sul palco. Torna Fersan Ospet, ecco, sul palco dell'Ambra Iovinelli per Mine Vaganti, uno spettacolo che la prima regia teatrale firmata dall'artista turco, solitamente insomma conosciuto come regista di cinema, dal 26 di dicembre fino al 2 di gennaio, quindi insomma per aspettare qualche giorno, appena dopo Natale, è l'adattamento teatrale del film che vinse insomma Davide Di Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'Oro, insomma tutto quello che è materiale per quanto riguarda l'argento e l'oro. Donatello non è una materia, ma tutto sommato un premio sì. E in scena, cioè, c'è un cast importante, come Francesco Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini, insomma, mi vengono in mente insomma, i primi nomi che vengono all'occhio. Quindi 26 dicembre, 2 gennaio andiamo a salutare l'anno con Fersan Ospetek al Teatro Ambra Iovinelli. Poi al Teatro Basilica invece, il 23 dicembre alle ore 19, uno spettacolo per tutta la famiglia che si chiama L'Uccellino Azzurro di Maurice Maeterlinck, con Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Daniela Giovannetti e Glenda Stewart. Si tratta appunto di un lavoro dedicato ai bambini, dai 6 anni in su, una favola che rivoluziona un modo di vivere addormentato e apre la porta a strade non battute. È una storia scelta nel primo lockdown, la fata Veriluna appare la notte di Natale e cambia la vita a 2 bambini. Eccola qui, la nostra rivoluzione. Sono figli di un falegname e sono costretti ad uscire dal loro luogo sicuro verso un viaggio loro sconosciuto, un viaggio di crescita, di conoscenza, di incontri. E questo lo andremo a vedere al Teatro Basilica il 23 di dicembre, appunto fiaba prenatalizia, L'Uccellino Azzurro, ore 19, 23 dicembre, Teatro Basilica. Poi ancora è il caso di recarci anche al Teatro Parioli, perché non questa settimana ma da inizio della prossima, no? Insomma ci sentiremo il giorno successivo. Il 26 dicembre inizierà Mattias Martelli, protagonista di questo mistero buffo di Dario Fo e Franca Rame, al Teatro Parioli. Lo spettacolo dal 26 dicembre replicherà fino al 9 gennaio. Mattias Martelli, nei panni di questo giullare moderno, la mimica di Fo, curioso che insomma un attore che fondamentalmente poco conosco, si misuri con un premio Nobel come appunto Dario Fo. È il lavoro che affonda la radice in una forma di teatro che attraverso la lingua corporale ricostruisce col suono, con le onomatopee, con il ritmo, con la mimica, tutto ciò che appartiene appunto alla commedia. La regia è di Eugenio Allegri, che conosciamo essere un grande attore, e appunto sarà in scena al Teatro Parioli del 26 dicembre fino al 9 di gennaio. Teatro Quirino invece, questa volta sì, da questa sera, Il malato immaginario, Molière, Emilio Solfrizzi, che non è un personaggio di Molière, ma l'attore che lo interpreta, al Teatro Quirino, sarà in scena fino al 9 gennaio, segue poi una tournée enorme che va avanti fino a marzo, una serie di date, sto vedendo, incredibile, e la regia è di Guglielmo Ferro e appunto l'interpretazione con altri attori, però sicuramente il protagonista è Malato Immaginario, Emilio Solfrizzi, ma insomma vedo attori che conosco, Sergio Basile, Lisa Galantini, Rosario Coppolino, e Malato Immaginario è la storia del teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà. Ha più paura di vivere che di morire, si rifugia nella malattia, non è altro che una fuga dai problemi, dalle prove che la vita, l'esistenza ci mette davanti. Questo è il tema del Malato Immaginario, che tutto sommato si conosce. Andremo a vedere qual è la ricerca che ha portato Guglielmo Ferro a avvicinare appunto questa comicità della storia del teatro, il capolavoro di Molière, in cui si ride, ma si ride del dramma. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Quirino dal 21 dicembre, questa sera, fino al 9 di gennaio. Ricordo che ancora fino al 23, quindi un paio di giorni, per vedere Dolore sotto chiave e Sic Sic l'artefice magico, il duo dittico di atti unici che Carlo Cecchi porta in dedica a Eduardo De Filippo sul palco del Teatro Argentina, e ancora appunto un paio di giorni per questo, mentre un'altra informazione importante sono gli ultimi tre lavori di cui parlare. Al Teatro Torlonia, 26 dicembre, della rassegna di teatro di narrazione, voce, parole, storia d'amore e alberi, ispirato all'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, di Francesco Niccolini con Simona Gambaro, la regia dello stesso Niccolini, con Luigi Delia. Si tratta di uno spettacolo che andrà in scena il 26 dicembre alle ore 17, spettacolo dai 6 anni in su, è il primo spettacolo realizzato insieme dai due, che ha avuto decine di repliche e ha avuto poi anche una conseguenza pratica, perché questo ha provocato una mini riforestazione diffusa, perché i bambini e le bambine coinvolti possono, grazie a questo lavoro, piantare alberi. E quindi dall'8 dicembre 2009, quindi la prima replica, ci sono state insomma un sacco di occasioni per piantare alberi. L'uomo che piantava gli alberi, un piccolo libro del 1980 che diventa un racconto simbolo quindi per la difesa della natura e l'impegno civile per l'ambiente, che oggi è tanto di attualità. Secondo lavoro di cui parlare è che settimana prossima, dal 27, che è lunedì, Gioia Salvatori, fino al 30 dicembre, se ne sta alle Carrozzerie Notte per il suo cuoro natalino. Arriva Natale, gli ultimi due li hai passati a parlare ai mobili, in casa, nello spregio della convivialità? Questo è il diritto di essere differenti. Cuoro è sempre cuoro, ma questa versione affronta tutti i temi cari a Natale. La famiglia, i fritti, i regali, i grandi classici del cinema natalizio e molto altro. Tutto nevrotico. Questo ci dice Gioia Salvatori, perché non l'avesse mai vista, assolutamente da non perdere, il suo cuoro natalino alle Carrozzerie Notte dal 27 al 30 di dicembre. Ultimo appuntamento della settimana è quello che sarà in scena al Teatro di Roma, per meglio dire al Teatro India, dove andremo a vedere lo spettacolo che doveva essere in scena la scorsa estate, ma così non è stato per lo sciopero dei lavoratori del Teatro di Roma, ovvero sia Sonora Desert di Muta Imago. La regia, le scene, le luci sono di Claudia Sorace, i testi, la ricerca, la drammaturgia sonora di Riccardo Fazzi, mentre la musica originale è quella di Alvin Carran. Al Teatro India dal 21 al 30 di dicembre. Sonora Desert è nato all'interno del progetto produttivo Oceano Indiano, un dispositivo installativo, questo Sonora Desert, che indaga il rapporto tra percezione e stati di coscienza, ispirato a un viaggio compiuto nel deserto di Sonora, uno dei più vasti deserti americani al confine tra l'Arizona e il Messico. A partire dalle pagine di Viaggio anniversario di questo viaggio all'interno di questo luogo mitico, nasce un esercizio sulla distanza, sul desiderio. Ecco, uno spettacolo che sperimenta una forma ibrida tra installazione, concerto e performance sonora. Questo è tutto quanto c'è in Sonora Desert dal 21 questa sera dicembre fino al 30 di dicembre. E attenzione, perché per lo spettacolo è previsto l'uso di luci stroboscopiche, quindi la visione è non consigliata a chi soffre di epilessia e cardiopatia. Con questa indicazione medica chiudiamo questo appuntamento ed è tutto per questo Natale. Ciao Fede! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.